studenti e studentesse della facoltà di lettere e filosofia di Roma 3 che va sotto il nome di Verlan. Verlan è una parola con cui generalmente si indica il linguaggio parlato dai giovani nelle banlieue parigine, un linguaggio che serve a comunicare tra di loro senza farsi comprendere dagli altri. Verlan sta per la parola francese l'envers, ossia il contrario. Infatti il Verlan non è un linguaggio diverso dal linguaggio ordinario, ma è lo stesso linguaggio ordinario preso e scomposto, ricreato. Infatti il Verlan consiste nell'invertire l'ordine sillabico delle parole del francese. E diciamo che questo è un po' l'idea, l'ideale che ha mosso gli studenti che si sono riuniti sotto questo nome, ossia quello di avviare una riflessione critica su una serie di temi attuali ed urgenti attraverso un linguaggio che fosse allo stesso tempo diverso da quello ordinario, ma non per questo estraneo, e che sfuggisse alle logiche e delle categorie del presente non criticate. Il nostro tentativo è stato quello di creare uno spazio di sapere condiviso, uno spazio di riflessione che quindi non accettasse passivamente il presente, ma che fosse in grado di decostruirne le categorie e le ricomponesse in un nuovo ordine. Il nostro lavoro si è concentrato in particolare su quattro grandi aree: linguaggio, corpo e potere, beni comuni e lavoro. Ognuna di queste aree è stata oggetto di un ciclo di seminari, e qua potete vedere, diciamo, i manifesti dei nostri 6 appuntamenti, che ci hanno guidato in un percorso in cui abbiamo cercato di mettere in circolo i saperi tra studenti e relatori, e siamo giunti alla fine a stilare 4 documenti in cui abbiamo messo a tema le analisi e le domande che questa serie di incontri hanno portato alla luce. Questi documenti poi sono stati sottoposti a tutti quanti i relatori del convegno in modo da avviare un dialogo a distanza tra noi, tra chi aveva partecipato a questi incontri e i relatori che sono qui presenti. Questo percorso non sempre è stato privo di ostacoli, purtroppo. In alcuni momenti l'università si è trovata su posizioni, diciamo, ha parlato un linguaggio che è stato distante da quelle che erano le esigenze, le speranze, i desideri di noi studenti. Un divario che crediamo vada colmato se l'università, come dovrebbe essere, voglia svolgere un ruolo, voglia dare la possibilità allo studente di recitare un ruolo non solo passivo, ma soprattutto attivo nella formazione e nella trasmissione del sapere. Questo però non vuol dire che non abbiamo incontrato nuovi amici durante il nostro percorso, anzi. Poi colgo l'occasione per ringraziare tutti gli studenti e tutte le studentesse che hanno partecipato ai seminari, così come tutti i relatori, tutti i professori e gli altri relatori del convegno per la grande disponibilità e collaborazione che ci hanno mostrato, e tutte le persone che a vario titolo, in vari modi, come la professoressa McLaren, che per esempio oggi ci ha lasciato l'aula per poter svolgere questo convegno, insomma tutti quanti quelli che hanno sostenuto e reso possibile la nostra iniziativa. Detto questo, iniziamo con la prima sessione, ovvero la produzione immateriale, femminilizzazione del lavoro e altre metamorfosi. Interverranno oggi il dottor Roberto Ciccarelli, che oltre a svolgere e svolto attività di ricerca presso vari atenei italiani, è anche autore per citarne uno, del libro Immanenza, Filosofia, diritto e politica della vita dal XIX al XX secolo, edito da Il Mulino. Poi abbiamo la dottoressa Cristina Morini, giornalista che collabora con varie riviste da Posse a Infoxoa a Derive Approli, che svolge in particolare un lavoro in questo periodo sul precariato cognitivo femminile, ed è autrice del libro La serva serve e Per amore o per forza, femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo. E poi abbiamo l'avvocato Lia Cigarini, che oltre ad essere un avvocato e giurista, è stata anche una figura di riferimento del femminismo italiano degli anni 70 e è stata tra le fondatrici della Libreria delle Donne di Milano. E, per inciso, chi volesse dopo potrà acquistare la rivista Sottosopra che qui è stata portata gentilmente dal Silvia Cigarini. E purtroppo non potrà essere dei nostri oggi il professor Finelli che per importanti motivi personali purtroppo ha dovuto declinare il nostro invito, ma che comunque ringraziamo per la disponibilità che ci ha mostrato durante la nostra preparazione. Prima di lasciare la parola ai relatori, però prenderò la parola Martina che esporrà brevemente un po' il percorso che abbiamo svolto in questi mesi riguardo alla sessione lavoro, facendo una panoramica sulle analisi che abbiamo portato avanti e le domande che vorremmo sottoporre all'attenzione dei nostri relatori. Allora, il percorso che abbiamo intrapreso riguardo a questo primo tema ci ha visti partecipi di due incontri molto importanti, con Andrea Fumagalli che ha inaugurato il nostro progetto e con le ragazze del gruppo Diversamente Occupate insieme al professor Sabatini. Questi due momenti sono stati in grado di aprire nuovi interrogativi sul presente, di rimettere in circolo e creare connessioni tra i nostri pensieri e le nostre pratiche di vita quotidiana. Con il professor Fumagalli e con il professor Sabatini abbiamo discusso delle modifiche del sistema produttivo e dunque del lavoro. Lentamente puoi leggere, scusami. Come? Se puoi leggere un po' più lentamente. Sì. Con il professor Fumagalli e con il professor Sabatini abbiamo discusso delle modifiche del sistema produttivo e dunque del lavoro stesso, del passaggio dal fordismo al capitalismo cognitivo e della messa a valore da parte di esso di idee, linguaggi e relazioni. Abbiamo cercato di indagare insieme, nell'attuale contesto di economia della conoscenza, il modo in cui viene continuamente espropriato il frutto della cooperazione sociale e di quanto viene prodotto in comune, imponendo adesso limiti e misurazioni. Tutto ciò ci è sembrato utile perché presto saremo gettati a pieno titolo nel mondo del lavoro, ma anche e soprattutto in quanto studenti e studentesse che quotidianamente si trovano a confrontarsi con l'istituzione universitaria e con tutti i meccanismi di mercificazione, misurazione e svendita del sapere. Con le ragazze di Diversamente Occupate ci siamo confrontati attentamente, partendo dal vissuto e dalle esperienze, sull'impatto che il lavoro post-fordista ha nella nostra vita, sulle ricadute esistenziali e dunque sull'identità di chi è costretto a vivere, o meglio sopravvivere, fra progetti in scadenza ed eteronomi. Abbiamo realizzato quanto sia strutturale la femminilizzazione del lavoro e come il capitalismo cognitivo sia stato in grado di sussumere prerogative relazionali e competenze che sono tipicamente femminili, riuscendo a rigenerarsi su di esse, facendoci vivere la nostra identità di genere non come una strategia di libertà, ma come una variabile da mettere a valore. Altro argomento messo a tema da Verlan, a partire da questi momenti di incontro, è stato quello del reddito di base. Ci siamo interrogati sulle possibilità che questa rivendicazione porta con sé a livello politico e sociale, come esigenza redistributiva di una ricchezza collettivamente prodotta e come tentativo di ricomposizione delle nuove figure del lavoro. Oggi, sfogliando le pagine dei giornali, leggiamo di sacrifici duri, tagli e austerità. Oggi che la crisi economica globale riesplode con tutta la sua forza anche nei discorsi dei politici più sfacciatamente ottimisti. Ci sembra chiaro che queste manovre implichino la chiusura di qualunque prospettiva di welfare, il tentativo di far pagare il disastro finanziario ai lavoratori e alle lavoratrici, una nuova macelleria sociale che cancella ogni residuo di prospettive per il futuro. Per il nostro presente, per costruire un'alternativa alla precarietà che investe ogni aspetto della nostra vita, ci sembra necessario cercare di capire come organizzare i segmenti della moltitudine e connetterli su un terreno di lotte che possa rovesciare tutto questo. Chiamo la parola allora per cominciare a Lia Cigarini. Sottoposto. ci sia più continuità che rottura. E mi sembra concludano per la continuità, perché la produzione immateriale, dicono, è fondata spesso sulla reiterazione di codici che i lavoratori compiono in maniera spersonalizzata. E poi aggiungono perché il capitale, o più concretamente il datore di lavoro, richiedendo impegno affettivo e emozionale, fa sì che la vita, la relazionalità sia messa a profitto, diventando merce. Però, perciò, mi sembra, dicano, non c'è differenza sostanziale tra capitalismo fordista e post-fordista. C'è più continuità che rottura. La mia prima reazione a tale domanda, che pure è intelligente e contiene qualche verità, è stata quella di dire basta. Sono 30 anni che si discute delle trasformazioni del lavoro. Ora è tempo, secondo me, di parlare di come uscire da una situazione di inerzia politica che umilia il lavoro. E interrogarsi su quale pratica politica per uscirne, hai fatto cenno a te, all'organizzazione, quali forme di connessione, di coalizione, direste voi, trovare per mettere in relazione di scambio i vari gruppi che riflettono sul lavoro sparsi per l'Italia. Cioè come si possono intensificare le relazioni di scambio per produrre politica e simbolico che possa orientare ciascuna, ciascuno nella frammentazione odierna. A mio parere non è un'analisi raffinata fino al dettaglio che spinge la modificazione dei rapporti di forza, bensì una pratica che riesce a far cambiare la vita delle persone, cioè riesce ad innescare dinamiche di relazione che sono anche di libertà. Se invece di guardare astrattamente all'organizzazione del lavoro, alla dei rapporti di produzione, si guardasse alla situazione soggettiva delle lavoratrici e dei lavoratori, si ascoltassero i racconti della loro esperienza lavorativa, ci si accorgerebbe bene di come sono cambiate le cose e sarebbe chiara la differenza tra fordismo e post-fordismo. Devo dire che nel nostro gruppo di lavoro della Libreria delle Donne di questo tema si è discusso poco, per la semplice ragione che le donne non sono entrate in massa nel lavoro all'epoca del fordismo, sono invece le abitanti naturali del post-fordismo e non si sono modellate e politicizzate coi paradigmi cognitivi e politici del fordismo, bensì a seguito della presa di coscienza e dell'azione del movimento femminista. Le femministe in senso stretto sono state una minoranza, ma il movimento si è irradiato in tutto il corpo sociale e ha così modificato il senso di sé, così come di sé e delle donne, così come nei rapporti tra i sessi. Narrando le une alle altre, nei gruppi di autocoscienza, la propria esperienza di cui la cultura sapeva troppo poco e cercando le parole per renderla comunicabile, le donne sono finalmente apparse nello spazio pubblico, così come inteso da Hannah Arendt come il luogo del manifestarsi con la parola e con l'azione. E non c'è dubbio che il lavoro sia un'articolazione fondamentale dello spazio pubblico. Il processo di presa di parola non si è chiuso, anzi è ripreso nei piccoli gruppi sparsi in tutta Italia che riflettono sul senso del lavoro, sui desideri, bisogni e interessi che le donne portano nel lavoro e su come aggregarsi per ribellarsi a condizioni di lavoro non certo a misura di donne. c'è una particolare sofferenza delle donne al lavoro, sia in quello di produzione che di riproduzione. Particolari contraddizioni mai comprese nei paradigmi cognitivi che via via vengono proposti. Quindi la presenza del lavoro, delle donne nel lavoro da protagoniste, unita alla presa di coscienza, è l'elemento dirompente nel mercato, secondo me, e apre nuovi conflitti sul piano politico e simbolico, quello in cui occorre più narrazione e più rappresentazione di ciò che si vive e si vuole, piuttosto che rappresentanza. Penso dunque che la narrazione sia la pratica adatta per rompere il quadro paradigmatico che si costituisce quando si procede facendo del lavoro e dei lavoratori oggetti di analisi e studio, anziché farli parlare in prima persona. Romperlo portando aspetti ignorati, esclusi di un'esperienza nuova. Elaborare un nuovo lessico sul lavoro, elaborare categorie, non a tavolino, ma con quelli che vivono in quella stessa situazione e si urtano con gli stessi problemi, questo fa parte di quel processo narrativo che aspira all'interpretazione, alla significazione, all'azione politica. Questa è in estrema sintesi la pratica politica del femminismo, che evidentemente nulla ha a che fare con la politica delle pari opportunità imposta e finanziata dall'Europa. Pratica politica che incrocia la crisi della politica in questo momento presente. Nel manifesto Immagina che lavoro, la cui ispirazione è tradurre la politica delle donne in idee pratiche per una politica del lavoro oggi, si scrive: la politica è caduta in grave crisi. In Italia in particolare si respira crisi della cultura, dei partiti, del sindacato e della democrazia. In questa crisi sta diventando chiaro a molti che gestire bene o male un potere, grande o piccolo, non è politica. È politica trasformare i rapporti di forza in rapporti liberi, cioè sfuggire ai meccanismi del potere per reinventare la condizione umana con libertà e giustizia. Il lavoro di trasformazione dei rapporti, che trasforma il mondo, chiede la presenza di donne e uomini che si parlano, nella ricerca teorica come nell'agire politico. Questo scriviamo nel testo. Si deve dire che così finora non è stato. La politica delle donne è stata ignorata. Ci sono alcuni, molto presenti nella sinistra radicale, che insistono sulle forme classiche della lotta di classe e non prendono in considerazione l'analisi e la pratica del femminismo, che io ritengo invece la strada che apre una prospettiva feconda al conflitto tra capitale e lavoro. Voi vi interrogate se alcune parole della tradizione operaia marxista come sfruttamento, rivoluzione, ineguaglianze sociali possano ancora essere usate nella società della conoscenza. Io dico sedicente società della conoscenza, da quando ho letto i dati Istat che segnalano la percentuale di nuovi posti di lavoro occupata dagli immigrati al 65%, quindi evidentemente quelli sono i nuovi posti di lavoro, non quelli della conoscenza. Allora, a proposito della vostra interrogazione sul lessico, penso di sì. Lo sfruttamento c'è, e come, visto quanto poco è pagato il lavoro, soprattutto in Italia. Ritengo però che il punto sia di trovare il sapere, la leva per la ribellione che non c'è. e anche tra i giovani. Penso anche che sia necessario un cambiamento radicale delle condizioni di lavoro, si può chiamarlo anche rivoluzione, però penso, qui cito una pensatrice politica americana, Rebecca Solnit, che la politica nasce dalla diffusione delle idee, dall'immaginazione che prende forma, e significa che i cambiamenti che contano non si svolgono semplicemente in scena, sotto forma di azione, ma nella mente di coloro che vengono descritti come il pubblico. La rivoluzione che conta è quella che avviene nell'immaginazione, il che equivale ad affermare che la rivoluzione non si presenta necessariamente come una rivoluzione. Perciò, dice lei, il problema oggi sta nel cambiare l'immaginario del cambiamento. Le studenti e gli studenti che mi hanno sottoposto le domande dicono, a proposito della femminilizzazione del lavoro, che con questa parola si definisce la richiesta di competenze relazionali e l'organizzazione del lavoro attraverso queste competenze. La parola femminilizzazione, come si sa, ha tanti usi. Uno è quello quantitativo, si contano le donne al lavoro e si constata che negli ultimi 15 anni sono aumentate in maniera esponenziale e sono presenti in tutte le professioni. Poi la si usa per dire che il mercato del lavoro oggi si è femminilizzato perché è più debole e precario per tutti. Inoltre si dice che la presenza delle donne nel mercato del lavoro ha peggiorato le condizioni di lavoro, perché le donne contrattano poco il salario, anzi hanno la tendenza atavica a lavorare gratuitamente. Questo lo dicono dei sindacalisti che magari hanno sottoscritto i pessimi accordi degli anni 1992-93 che hanno ridotto i salari italiani ad essere più bassi d'Europa, e quelli di ingresso dei giovani quasi vergognosi, quindi dovrebbero tacere secondo me. La parola cioè tende ad avere più significati e una connotazione negativa. Io invece, insieme a tante altre, penso che entrando nel lavoro per il mercato, le donne portano una massa di lavoro, quello di relazione, che non può più essere tenuta separata e che cambia l'idea stessa di lavoro. Questo è di più che portano le donne, che chiede di ripensare il lavoro per tutti. Anzi, è proprio la femminilizzazione del lavoro che oggi, a mio parere, apre nuovamente la possibilità di rimettere il lavoro di tutte e di tutti, la sua qualità, il suo senso, al centro della scena sociale. Quindi non sono d'accordo con la vostra analisi che vede nella messa al lavoro delle relazioni solo un'ulteriore mercificazione dell'attività umana. Non sono d'accordo perché il fatto che le donne portino tutto al mercato, anche ad esempio il desiderio maternità, la relazione materna, rende visibile ciò che eccede il profitto. E quindi rende possibile l'inizio di un cambiamento dell'organizzazione del lavoro. È il capitalismo che vuole mantenere la relazione materna come fatto privato e cerca in tutti i modi di sottrarsi al sempre più pressante out-out delle donne, o tempi di lavoro a misura del mio desiderio o cargo. È noto che in alcuni paesi è prevalsa la scelta di trattenere al lavoro le donne, perché bisogna qui sottolinearlo, esse hanno più competenze in generale degli uomini, non solo quelle relazionali. Infatti le giovani donne sono da anni la maggioranza dei laureati e dei diplomati, cioè la parte colpa della società. Voi mi chiedete che cosa in realtà si intende per competenze relazionali. Ho già sottolineato che non a caso la pratica politica inventata dalle donne è pratica di autocoscienza relazionale da 30 anni. che raggiunta una certa condizione di soldi, insieme ad alcune aderiscono a dove sono e a quello che fanno. Che cosa le si risponde? Sei la donna, sei un'illusa, il capitale ti ha scippato anche la vita, le relazioni private vanno bene, nel luogo di lavoro sono soltanto merce. Ancora una volta, secondo me, si cancellano le lavoratrici e i lavoratori, quello che vogliono, penso. Tutto è macchinazione e produzione del capitale e del potere, siamo ancora fuori. D'altra parte, la soggettività delle singole persone non è mai stata presa in considerazione dai teorici della sinistra. Se il vecchio movimento operaio è franato e il capitalismo ce l'ha fatta ancora una volta, è perché qualche risposta, sia pur ingannevole e parziale, il capitalismo la dà alle esigenze della singola persona, come dicevo, mai presa in considerazione. Io penso che le rigidità vere sono quelle di soddisfare il simbolico maschile, perché da quello che ho sentito il sindacato, ad esempio, è organizzato come un'azienda. Lì non si può parlare di azienda capitalistica, ci sono le stesse rigidità, quindi queste a mio parere non sono tutte da attribuire al capitalismo, ma al simbolico. Però trovo stimolante la vostra ulteriore domanda. Insomma, che ne è della differenza sessuale? Si può avere dei dubbi a questo proposito, che ne è della differenza sessuale con l'entrata in massa, con la modernità e l'entrata in massa delle donne nel lavoro. Luisa Muraro, ad esempio, teme che la troppa prossimità delle donne al mondo degli uomini avvenuta con la modernità e l'entrata in massa nel mondo del lavoro fuori casa rendano difficile ragionare in termini di differenza. Lei sottolinea che non a caso il primo e sovversivo gesto politico del femminismo è stato quello di separarsi e di abbandonare le forme politiche maschili, partiti, istituzioni, rappresentanza, e di costituire un sapere femminile e un altro sguardo sul mondo. Io rispondo, e mi sembra di aver spiegato il perché, che il lavoro con impronta femminile ha un significato più ampio e più profondo di quello pensato dagli uomini. O per meglio dire, è nel suo fondamento lavoro come congiungimento tra produzione e riproduzione dell'esistenza umana. E qui io vedo un'irriducibile differenza tra donne e uomini nel lavoro. Qui si manifesta in pieno la simmetria dei sessi e un nuovo conflitto tra i sessi. Sono stato un po' lungo, scusa. Ringraziamo Lia Cigarini per il suo intervento e diamo la parola a Cristina Morini. Quanto volte la luce. Allora, io vorrei partire da una cosa. Voi parlate nel documento che ci avete mandato di post-fordismo, nel corso, come dire, di tutte le pagine, anche il titolo stesso del documento che sta post-fordismo. A proposito del fatto di dotarsi di una terminologia adeguata loro, io ho delle perplessità su questo termine, nel senso che il termine post-fordismo si indica un momento di passaggio tra la crisi della grande fabbrica e un periodo che precede quello che per me, io convengo con questa tesi, l'entrata, l'ingresso in un nuovo paradigma che è appunto basato sulle tecnologie di rete, sulle relazioni, sulla conoscenza, quindi capitalismo cognitivo o biocapitalismo, se diamo particolare valore e rilevanza anche a questo tema della relazione, quindi allarghiamo che il portato differente delle donne avrebbe portato e innescato anche forme di trasformazione della produzione e dell'organizzazione del lavoro, no? Quindi la questione della conciliazione, un'azienda più a misura uomo-donna, una flessibilità agita davvero che facesse respirare certamente quel tema dell'autonomia terribilmente repressa dentro la forma del disciplinare fordista, rigido, maschile della fabbrica. Ora io penso che sia invece accaduto il contrario, cioè l'attuale produzione terziaria dei servizi più aperta al genere femminile, come diceva anche Elia Cigarini, e le forme di organizzazione del lavoro che fanno appello ad attenzione, affetto, intelligenza emotiva, in tutta diciamo, la pubblicistica dell'organizzazione di impresa, se voi guardate un testo a caso queste cose le trovate, stanno provando a cambiare noi, le donne. Quindi il depotenziamento del femminile non avviene, secondo me, in questa fase, come è successo in passato, attraverso la sua esclusione dallo spazio pubblico. E che veniva attuata attraverso una netta visione sessuale del lavoro, ma viceversa attraverso una progressiva femminilizzazione della società che si traduce nell'assorbimento del potenziale sovversivo della differenza. Questa secondo me è la straordinaria invenzione del biocapitalismo. L'alterità viene assimilata ottenendo con ciò la sua integrazione e dunque tendenzialmente questa forse la scommessa ed è quello contro, come dire, contro il quale noi ci muoviamo, ci dobbiamo muovere, tendenzialmente la sua scomparsa. Sul fronte opposto si gioca la femminilizzazione del maschile istituito dai processi produttivi presenti che viene stimolata dagli stessi elementi prototipici, culturali, richiamati e messi in campo dal processo di femminilizzazione, ovvero precarietà, affettività, corporeità, cura. La femminilizzazione ha significato, dunque, oltre al fatto di un ingresso quantitativamente molto rilevante delle donne nel mondo del lavoro, una enfatizzazione di un distillato stereotipico della femminilità. Il lavoro richiede qualità storicamente ritenute più femminili, attribuite alle donne dentro una logica di presunta natura. E anche qua a me viene da dire, la natura che cos'è oggi? No? Una natura che viene chiaramente messa in crisi dalle biotecnologie. Che cosa è naturale? Che cosa è artificiale? No? Anche questa dicotomia non ci aiuta più a capire effettivamente chi siamo come soggetti e che cos'è il nostro presente. Oggi ci sono forme viventi interamente costruite in laboratorio, l'abbiamo letto tutti sui giornali questi giorni, no? Quindi un passaggio determinante che riscrive il confine del biologico e dell'artificiale e che avrà certamente conseguenze filosofiche sul concetto stesso di vita. Allora, le dicotomie saltano, si scompongono i confini tra produzione e riproduzione e esse sono entrambe oggi funzionali ad assumere un valore di mercato dentro una logica dello scambio, quindi assumono un valore di scambio per il mercato, entrano l'una nell'altra, anzi, semmai è proprio la riproduzione, intesa qui come riproduzione sociale, quella che diventa più interessante. No, pensate appunto alla cooperazione sociale, ai processi di implementazione progressiva, collettiva, no? Questo andamento algoritmico della conoscenza che è favorita dal movimento. Quindi, femminilizzazione, precarizzazione, transito da uno status all'altro, intermittenza, mescolanza, multiskill, mobilità, multitasking, alterità, viaggio, tutti questi concetti, tutte queste nuove parole si ritrovano nel lavoro, nelle esperienze descritte dalle persone al lavoro oggi e scompaginano le categorie di classe e di genere, rimodulano in qualche modo l'esperienza culturale e sensoriale del soggetto, trasformano, mutano le persone in modo profondo e assai più determinato del passato, perché il lavoro emerge elaborate dal generale Mattele. Quindi il passato dalla sussunzione reale alla sussunzione totale del lavoro sotto il capitale oggi non ha bisogno di brutali imposizioni e di cesure, dicotomie appunto o estromissioni, ha bisogno di una specie di credo, ha bisogno di affidamento, di entusiasmo, di fiducia nel fatto che riporre lì tutti i tuoi desideri porterà qualcosa di buono per te. Sempre la pubblicistica dell'organizzazione aziendale fa riferimento a questa parola che in inglese è sense making, quindi proprio produzione di senso. Quindi l'emancipazione attraverso il lavoro, sia chiaro, è stato un momento fondamentale, dirimente, determinante e poi tra l'altro in Italia non ha ancora del tutto compiuto. Ma esso, viste le condizioni che personalmente io non so, mi sento di descrivere e di osservare, ma sono quelle che non ha significato un'effettiva liberazione per le donne. Quindi questo secondo me è un primo punto fondamentale. Te la dico come dicevo, come la vedo io. Forse si è trascurato di sottolineare sufficientemente che ci troviamo all'interno di un sistema capitalistico di produzione basato sull'ineguaglianza. Quindi il privilegio di cose non ha significato comunque la libertà di tutte, non siamo in quella dimensione, anzi a me sembra di intravedere che proprio nelle descrizioni anche come dire, sul lavoro che faceva lì a Cigarini si nota. Dopodiché, certo, contando su bisogno di autonomia, di visibilità, su un crogiolo di capacità inespresse, represse dalle donne, il capitalismo che non è mica filantropico, ha virato la propria attenzione sulle donne, proprio nel momento in cui si entrava in questo nuovo paradigma della qualità, dell'informazione e della conoscenza. La soggettivazione, la cognitivizzazione e l'ingresso delle differenze all'interno della produzione hanno comportato una crisi della misura, come voi sottolineate. Nel passato dall'era della quantità fordista, dove tempo e pezzi erano misurabili, a quello della qualità, del capitalismo cognitivo, dove l'apporto è soggettivo e collegato a sapere di esperienze e differenze. Il fatto che salti la misura significa un aumento dello sfruttamento, secondo me, non qualcosa di diverso. Si assiste ad un'intensificazione dello sfruttamento, perché la macchina è stata in qualche misura direttamente incorporata nell'individuo. E da questo punto di vista è giusto porsi anche la domanda che cosa si intende con competenze relazionali, che sono uno dei fondamenti qualitativi del capitalismo cognitivo. Forse sempre più quella dimensione fusionale che si aveva nel privato e che oggi viene esportata nel lavoro, all'esterno, e che ancora una volta condiziona le donne, visto che stiamo parlando di donne, visto che io sono una donna, certo tutti, ma a me interessa dire le donne. Essa è funzionale a forme di dominazione e di dipendenza contemporanee, non più tra le mura domestiche, ma sparpagliate nella società. Quindi, secondo punto, forse dovremmo legittimarci a vivere per noi stesse, evitando questo prolungamento della maternità e della cura dentro il lavoro. Qui infatti entra in gioco tutto il tema dell'affetto e della cura, che a me interessa osservare, no? Perché il modello della cura diventa una strategia di governo della complessità e insieme un depotenziamento delle conflittualità. Il modo di significato che il termine cura suggerisce costruisce un vero e proprio modello comportamentale, un'etica appunto, che si pretende di trasferire nella produzione. Il modello del lavoro di cura è il più forte tra quelli a disposizione per ottenere l'anima, dunque più efficace da richiamare quando gli elementi relazionali e linguistici che coniugano relazionalità, affettività e corporalità diventano assolutamente fondamentali nella costruzione della nuova produttività. Cosicché si assiste alla generalizzazione del codice della cura, la cui sintassi può uscire dalle case e proporsi al mondo, si può applicare al lavoro cosiddetto produttivo, alla politica, al governo del soprattutto dentro una dimensione come quella del capitalismo cognitivo basato sulla relazione, dove appunto i legami, no, con quello che scriviamo, quello che le persone che ci prendiamo cura, sono assolutamente fondamentali dentro i meccanismi di produzione. In questa prospettiva il libro di Christian Marazzi, Il costo dei calzini, ha già colto perfettamente questo paradosso del cosiddetto non lavoro delle donne, no? Quindi in sostanza la simmetria di potere esistente tra uomini e donne porta quest'ultime all'interno del privato della casa, escluse da ogni categoria di cittadinanza consentita dallo spazio pubblico, a farsi carico dei problemi più minuziosi del partner, in assenza di qualsiasi formalizzazione del proprio ruolo. Oggi, che non ci sono più diritti sociali protetti da norme giuridiche solide di natura, in questo scompaginamento complessivo del diritto del lavoro, tutti imparano ad avere attenzione per dove stanno i calzini, intendendo con ciò un simbolo di dedizione ed affetto che fuoriesce dai confini della famiglia ed entra nella fabbrica. Il non lavoro, nel dissolvimento delle garanzie del lavoro dipendente, si fa diffuso. Nella precarietà, la contraddizione tra lavoro e non lavoro perde di significato. Esso racchiude in sé il passaggio dalla riduzione quantitativa del lavoro salariato al mutamento qualitativo dell'attività pratica del lavoro. Ora, ci sono alcuni ordini di problemi che sarebbe interessante affrontare, possono servirci proprio per prendere coscienza e innescare, secondo me, dinamiche di resistenza in questa dimensione di progressivo indebolimento del lavoro e di progressivo mangiarsi la nostra esistenza del lavoro. Quindi, il primo punto, il problema delle categorie della creazione della produzione. Esse vengono spesso usate, secondo me, in modo un po' troppo indefinito e astratto. Bisogna che gli stessi soggetti produttori lavorino sulla percezione concreta di che cosa è produrre e o riprodurre e o creare e o generare e o inventare oggi. Che cosa vuol dire? Che cosa vogliono dire questi concetti nella realtà odierna? Come facciamo a far capire dove si generano? E come, in che forme, vecchie, mutate, conosciute oppure nuove, lo sfruttamento, la reificazione, l'alienazione, la patologia del lavoro oggi. E viceversa, appunto, dove sono, dove stanno, dove si situano in questa dimensione l'invenzione, la creazione, l'azione. Tende a generarsi una saldatura tra i due campi, i complici, i bisogni e le imposizioni del lavoro precario contemporaneo? Se sì, come? Dobbiamo tutti, e non solo io, secondo me, applicarci a rispondere con serietà a questo genere di domande, chiarire per capire come e dove rompere questo legame d'amore, laddove c'è produzione, no? E quindi non quell'invenzione, quella creazione. Rompere un legame d'amore con l'impresa, questo inedito innamorato che ci si presenta davanti, e, come dire, trovare un modo di esperire, nel caso in cui si tratti di produzione, non di invenzione, non davvero di creazione, esperire forme di infedeltà. Secondo questione è quella dei laboratori della conoscenza, no? Abbiamo anche in questo punto più bisogno che mai di chiarezze, no? Di percepire questi nuovi attuali distinti, no? Parlare di lavoro cognitivo, di lavoro immateriale, di laboratori della conoscenza genera ancora un po' di sgomento. Porre l'accento su questa fascia di lavoratori diventati anch'essi paradigmatici, per forza il loro malgrado, verrebbe da dire, no? Dentro un sistema economico che si basa sulla conoscenza e sul linguaggio, non significa affidare loro una nuova centralità, né dimenticare il lavoro di fabbrica, che nessuno si sogna di dimenticare, che comunque continua ad esistere, oppure la scomposizione del lavoro, le gerarchie del lavoro a livello globale, ma significa guardare alle nuove contraddizioni del presente e ad alcuni cambiamenti. Cioè il lavoro intellettuale in passato che cos'era? Era un lavoro che godeva di autonomia, status, compensi di un certo tipo. I lavoratori della conoscenza oggi come stanno messi? Leggo a caso come si racconta questo gruppo di traduttori. Siamo dentro alla macchina dell'editoria, stanchi di essere contattati all'ultimo momento per tradurre pagine dall'uno all'altro rovescio delle lingue anglo-romanze, stanchi di aspettare un allegato elettronico da riversare in cartelle da 2000 battute, a loro volta tradotte in panico, un panatico affitto bollette. Leggevo i dati, per ciò che riguarda i giornalisti, della gestione separata dell'INPGI, che è la cassa di previdenza dei giornalisti. Ci sono 30.000 giornalisti precari, iscritti alla gestione separata dell'INPGI, che guadagnano una media di 11.000 euro lordi l'anno. Questo per dire. Quindi, certamente siamo in una situazione di despecializzazione e teorizzazione del lavoro produttivo. Convengo con quello che voi scrivete nel vostro testo. Quindi il tema della proletarizzazione del lavoro cognitivo è un altro dei temi che ci si pongono davanti con forza. Quindi un precipitare del valore della conoscenza, con 500.000 di ragazzi che lavora gratuitamente in regime di stage, a proposito del lavoro di cura delle donne e quindi di questa dimensione che si trasla anche nel più in maniera più allargata nel mercato del lavoro, sia in generale. Un 50% di laureati che si trovano a lavorare dopo un anno con una media di reddito che si aggira sui 1.000 euro al mese. Altro tema, la parola alle donne. Su questo sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Cigarini. Le donne, tanto più oggi, devono secondo me osservare meglio di quanto hanno fatto il tema del lavoro. Forse l'hanno fatto poco, a parte alcune eccezioni, ma insomma, devono tornare di più ad osservare questo tema del lavoro, tanto più visto che abbiamo a che fare con un lavoro risoggettivato e qualitativo. Non c'è in questo nessuna tendenza, tentazione essenzialista, c'è dire che l'esperienza storica, culturale del femminismo e del femminile può diventare un'utile chiave di lettura per tutti. Quindi un elemento particolarmente importante dell'ambito della produzione immateriale contemporanea, che tende a saldare produzione e riproduzione e a intrecciare lavoro pagato e lavoro non pagato. Altro tema è quello, secondo me, sulla ricomposizione sociale, quindi l'intreccio attuale tra soggettività e lotte di natura diversa. Secondo me, quando noi pensiamo al soggetto oggi abbiamo un grosso problema, perché c'è evidentemente nella frammentazione, anche consentita dalla precarizzazione, un problema evidente a tutti nel intravedere come ricomporre queste figure. No? Quindi è chiaro che tra me, una donna quarantenne, giornalista, con Italia, e una giovane donna migrante, ci sono delle differenze immense. Ma in entrambe queste soggettività non esistono categorie che potrebbero essere incrociate a piacere con altre, di volta in volta, insieme o sotto insieme, genere o specie, tutto parte, in tutti i sensi senza mai stabilire gerarchie di identità o di merito. Mi domando insomma, noi oggi, vorrei capire così, non siamo anche singolarità che a loro volta sono moltitudini dentro, no? Quindi sfaccettate, mutevoli, attive, caleidoscopiche, perché così, se questa cosa è vera, ci si presenta di fronte il nodo interessante della gestione politica di un nuovo tipo di lotte, non identitarie, ma strategicamente orientate di volta in volta su un obiettivo. Può essere così, e questo può tornarci utile, classe e genere non dovrebbero essere mixate. Non dovremmo guardare anche alla verticalità che si genera nella ineguaglianza, quindi con molti uomini femminilizzati, nel senso di precarizzati, nel senso portati ad essere, come dire, a lavorare nelle condizioni che sono state invece storicamente attribuite al femminile, e molte donne di potere sopra, cioè e uomini sotto, quindi anche questo tema qua non ci pone qualche domanda. Mi chiedo dunque se nel presente, per avere una nuova affermazione delle singolarità in lotta, non si renda necessario, propedeutico, una decostruzione delle identità a cui eravamo abituati in passato, e se questa decostruzione non potrebbe, invece che impoverirci, aprirci nuove prospettive, maggiori potenzialità di muoverci e di confliggerci, e di confliggere alleanze trasversali, inedite, so come dire, poiché si accetti davvero di entrare dentro quest'altra dimensione, smettendo di guardare solo alle nostre spalle a modelli precostituiti che non torneranno più. L'ultima questione sul reddito, scusate se non mi dà. Allora, il tema del reddito. Il cambio strutturale di paradigma, ha detto che io sono d'accordo, la prima cosa che domandavate è lì, ha detto che sono d'accordo, io sì, sono assolutamente d'accordo sul tema del reddito. Il cambio strutturale di paradigma, col declino del lavoro salariato e di tutte le forme di assicurazione adesso collegato, ci pone con urgenza di fronte al problema di spingere, secondo me, proprio dal punto di vista degli immaginari, del lavoro culturale sull'orizzonte del reddito. Come dice Van Parijs, esso potrà essere istituito solo se ampiamente percepito come giusto ed eticamente accettabile, e questo è un po' il quadro. Il reddito secondo me si presenta come la moneta con cui dovrebbe essere pagato il precariato metropolitano, così come il salario ha rappresentato la forma della distribuzione in epoca comunista. Ora non si capisce perché le battaglie per gli aumenti salariali erano considerate buone e giuste, quelle però in difesa dello stato sociale che pure aveva avuto un salario di welfare e di divisione sessuale del lavoro, un sacco di pete, uno stato sociale più familistico, pienamente incompiuto, comunque erano anch'esse ritenute come dire, buone e giuste, il reddito viene sempre legato in un angolo come una crisma utopista. Oppure perché esso dovrebbe innescare, qualora mai fosse istituito, derive consumistiche, edonistiche, eticamente censurabili. Perché gli aumenti salariali non venivano in nessun modo interpretati così, cioè nessuno si è mai domandato se mai un aumento salariale avrebbe potuto suggerire a chi lo riceveva di comprarsi un paio di Nike e quindi in qualche maniera di lasciare schiavi non so quale situazione. Il reddito si presenta come forma, secondo me, della remunerazione di un lavoro già svolto, nel momento in cui socialità, relazione, cooperazione vengono messe al lavoro. C'è il solito esempio del consumo, secondo io un altro esempio che faccio è quello di Facebook. Facebook è come dire, un social network che come dire, ha scopi di profitto, dove noi tutti stiamo, però ha cambiato, diciamo, virato quelle che erano degli intendimenti così di essere un mezzo sociale per diventare un luogo che genera profitto e noi là tutti siamo, produciamo contenuti, ci mettiamo le nostre cose e questo profitto però non viene distribuito. Il lavoro non pagato, ciò che valeva in passato per il lavoro di cura, diventa il paradigma dell'intera produzione contemporanea. Il valore prodotto dal lavoro oggi eccede sempre la mera remunerazione, viene pagata solo una minima parte di ciò che viene effettivamente ceduto. La crisi economica del presente è anche crisi di questa mancata distribuzione ed è la crisi della misura del lavoro nel presente. Poi vado per punti. Prima cosa, se ho un reddito di base sarò meno disponibile ad accettare tutto. Quindi secondo me è esattamente il contrario della preoccupazione che mi sembra che voi aveste. Secondo, si tratta di uscire dalla vecchia logica degli ammortizzatori sociali, quindi il reddito è, secondo me, distribuzione un lavoro già svolto, di un valore già accumulato, e quindi non è un ammortizzatore sociale, e va pensato come misura alternativa concreta per attivare anche la ricomposizione e la frammentazione, per collegare ceti medi impoveriti e tutta l'area del precariato in generale. Quindi è uno strumento propedeutico, secondo me, a invertire la dinamica salariale e a sollecitare nuove forme di organizzazione. Terzo, il problema posto dalle vostre domande, non tutte mi erano perfettamente chiare. Appunto, innanzitutto io intendo reddito come remunerazione, non è una misura assistenziale. Voi dite, siccome è saltata la misura nel lavoro cognitivo, come facciamo a sapere se corrisponde al salario minimo di sussistenza? Come dicevo, non capisco molto bene. La misura che noi citiamo nel fordismo era quella della produttività, ma anche qui, chi ha detto che la giusta retribuzione fosse rappresentata dal cottimo? Cioè, sono 580 euro stabiliti, sul quanto superiore dipende evidentemente dai rapporti di forza. Lui ha trovato questa misura mediana stabilendo convenzionalmente che esso deve essere superiore del 20 o 30% alla soglia di povertà. Dopodiché alcune domande sul reddito se le fa perfino la Caritas, quindi come dire, il tema si sta diffondendo anche di fuori di quelli che sono gli ambiti classici del movimento, dove sono 30 anni che se ne parla. Certo, è solo uno strumento, non si può pretendere che il reddito risolva di per sé tutti i problemi grossi che stiamo attraversando. Poi ci serve, secondo me, anche una diversa ottica. Si pone il tema immenso della nostra responsabilità e della nostra decisione come esseri senzienti e non passivi. Si pone, secondo me, il tema immenso di cominciare a costruirci da precari nuove genealogie. Grazie a Cristina Morini e adesso la parola a Roberto Ciccarelli. Pensandoci e ripensandoci, in realtà, a proposito della genealogia che invocava poc'anzi Cristina, in realtà sono temi molto forti, molto potenti, ideali per fare una genealogia, nel senso anche diciamo del termine, e con brevi cenni è quello che cercherò di fare, a partire appunto dal rinnovato rapporto tra debito e abbiamo sperimentato, diciamo, nell'università dal 1989 a oggi, in cui sono iniziate le varie progressive riforme dell'università per giungere all'ultima, quella definitiva, non perché ritengo questa riforma universitaria metta una pietra tombale sull'università, cosa che è già stata fatta diversi anni fa, no, è la gestione, la rinnovata gestione economica del sapere, in termini schiettamente neoliberisti e neopauperistici, che disintegrerà l'università moderna così come l'abbiamo conosciuta noi nel secondo dopoguerra, pubblica e privata. Una precisazione, perché serve il mio breve percorso genealogico sulla nozione che voi usate in maniera abbastanza generica sul lavoro della conoscenza, è stato già abbastanza precisato prima. Mi rifaccio a una recensione, io ritengo memorabile, uscita sul Manifesto del 1990, un libro che credo rappresenti per voi un punto di riferimento teorico, il vostro documento gronda a dir poco di post-operaismo. Quindi vi cito questo sentimento dell'al di qua, specificata sul merito del libro, che però ci può aiutare a capire di che cosa parliamo quando parliamo di lavoro, del lavoratore della conoscenza, lavoro della conoscenza. Lui si chiedeva, non sarà che questi autori resistano a riconoscersi proletarizzati nel proprio lavoro intellettuale, così assalariati e al tempo stesso fruitori di un privilegio di conoscenze? Ripeto, io non sono convinto che il problema di quel libro fosse questo, però era una domanda interessante. Perché Forchini in qualche modo ammoniva a non perdere la propria coscienza di salariati nel momento in cui si facciamo un lavoro intellettuale. Questa situazione è stata per lungo tempo, parlando di questo paese, del tutto ignorata, sia dalle istituzioni che producevano, diciamo, lavoratori della conoscenza, sia dalla coscienza degli stessi lavoratori della conoscenza. Che cosa si intende? Tradizionalmente le professioni liberali, questo è il nesso che va in pezzi, come Fortini disse in quella recensione, ovviamente come diceva quel libro, e anche molto prima della fine degli anni Ottanta, ed è su questa rottura che noi ancora oggi continuiamo a ragionare. Perché? Che di solito, e questo è un altro problema di quando si parla di precariato, precariato è una condizione assolutamente generica che non definisce nessun soggetto in particolare, eppure ciò nonostante viene considerato come un soggetto. In realtà, proseguendo sul ragionamento della rottura che facevo prima, l'ammonimento di Fortini lo trovo sensato ancora oggi, perché ci aiuta a pensare al lavoratore della conoscenza come qualcuno capace o non capace, comunque, che deve gestire un'attività di natura autonoma e subordinata allo stesso tempo, a metà tra lavoro intellettuale e manuale, indipendente, di tipo indipendente o appunto salariato. Oggi questo lavoro, e questo probabilmente è ciò che ci separa dai 20 anni che sono trascorsi, ho scelto questa recensione perché appare sostanzialmente nel momento in cui esisteva un movimento molto forte all'università che non ha raggiunto granché, però era molto interessante, negli stessi mesi appariva sia questo libro che quella recensione. Oggi questa condizione è collettiva, in che senso? Perché si è formata una terra di mezzo tra la pubblica amministrazione e il mondo delle imprese private, che sono per comodità i due soggetti che rappresentano il mercato del lavoro a cui si fa riferimento, il lavoro della conoscenza, una terra di mezzo che il Schneider pochi mesi fa è riuscito, con modalità ancora tutte da capire, però comunque attendibili, a calcolare in circa 4 milioni di persone. Cioè, come vedete, a proposito dell'osservazione che facevo sul precariato, il precariato di solito viene caratterizzato come un periodo vuoto del sistema, in attesa di una risoluzione che si traduce sempre nella ricerca di una stabilizzazione all'interno di una forma già data di lavoro regolata secondo un contratto. Nel momento in cui questo diviene impossibile, perché da questa crisi, come dicono alcuni tra i più avveduti economisti, non uscirà sicuramente con una crescita occupazionale, e beh, insomma, o ci rassegniamo a questa caratterizzazione, diciamo, privativa, negativa del precariato, oppure rovesciamo radicalmente le ragioni di questo concetto e allora iniziamo a parlare di lavoro indipendente, che potrebbe comodamente sostituire questa nozione precariato, diciamo, la userei solo in termini esistenziali, biografici. Se vogliamo ragionare, come credo stamattina stiamo facendo, e insomma, il vostro documento ne ponderoso esempio, in termini anche politici, che ragiona su una rottura, bene, bisognerebbe provare a rompere rispetto al nostro stesso linguaggio, che anch'io, come penso molti altri, mi sento permeato completamente da questa antropologia negativa mi condiziona a tal punto da farmi usare un linguaggio e non farmi vedere quali sono le alternative anche reali, che mi dà anche, non dico la poesia, ma insomma la sociologia mi aiuta a definire questa condizione come lavoro indipendente, quello della conoscenza, lavoro della conoscenza come lavoro indipendente, non come lavoro precario. Non è una precisazione inutile da fare, perché le parole contano e hanno un peso, e soprattutto hanno un peso nel momento in cui si vuole fare una genealogia, cioè recuperare o inventare una storia, così come gli stessi depositari o destinatari di questa storia mai si aspetterebbero. Questo normalmente Foucault stesso, cioè, sosteneva questo effetto sorpresa in qualcosa che almeno teoricamente dovrebbe andare a recuperare semplicemente le radici di un passato remoto che si annida in qualche archivio oscuro e opaco, che però alla fine ti consegna sempre un'immagine diversa. Quindi, una volta chiarito che non sto parlando né voglio parlare del precariato, ma del lavoro indipendente, cioè della nuova condizione di indipendenza in cui noi viviamo, in questo tipo di società caratterizzata, come è stato prima, da un selvaggio attacco a tutti coloro che fanno un lavoro della conoscenza, al disprezzo di tutte le istituzioni formali della conoscenza verso i singoli e le singole, che in maniera indipendente, in maniera creativa o meno creativa, cercano di fare questo lavoro. Sono 20 anni che questo disprezzo da parte dell'università e della scuola va avanti senza che abbia trovato una minima opposizione significativa, per cui si tratterebbe di trovare anche non solo una narrazione ma una forma d'azione, una coalizione per reagire. Passo alla questione del credito del debito. L'ho ritrovata elencata in termini molto suggestivi nel secondo saggio della genealogia della morale di Nietzsche, il quale indica appunto nel rapporto contrattuale nella pubblicazione economica l'origine del debito. Noi siamo una società del debito, non del credito, come è evidente dalla crisi bancaria, eccetera, nel senso che la nuova crisi che stiamo vedendo nascere anche in Italia in questi giorni grazie alla manovra è dovuta sostanzialmente a una cosa, che gli stati non sono più capaci di ripagare il debito creato dalle banche degli anni fa, negli ultimi 3 anni. Per cui si impone, non avendo più i soldi per supplire, è straordinario perché di solito lo Stato raramente si è fatto garante del credito per una banca, però non è più possibile garantire quel credito, per cui si impongono queste manovre sanguinose starative di cui parlano anche oggi i giornali. Vabbè, cosa dice? Dice: la compravendita con tutti i suoi attributi psicologici è più antica anche degli inizi di ogni altra forma di organizzazione sociale o di associazione. Dalle forme più rudimentali del diritto personale si è trasposto in un nascente sentimento di scambio, contratto debito, diritto, obbligo, compensazione nei più rozzi e iniziali complessi comunitari. Nasce insieme all'abitudine di paragonare potenza a potenza, di misurarle e calcolarle. Quando si parla di debito, di credito, si parla sempre di una politica di potenza. Nietzsche parlava faceva questa osservazione ovviamente pensando a una società di tipo cristiano liberale, costruita appunto, come dicevo prima, sul modello del credito. Il credito permetteva a un uomo, ovviamente, sempre un uomo, era di essere riconosciuto come soggetto responsabile, perché appunto manteneva la propria parola, raggiungeva lo scopo prefissato mediante un accordo razionale sulle risorse a disposizione. Era un uomo di parola, per cui veniva conosciuto un credito, lo maturava rispetto alla società. Ora, poteva in una posizione tale che quest'uomo, e passo alla descrizione di che cos'è in questa genealogia il contratto di lavoro, era talmente pieno di credito, pieno di sé quest'uomo, che poteva anche accettare di essere subordinato a un datore di lavoro, ad esempio, perché sapeva di contare sulla libertà che il credito li riconosceva comunque. E su questo modello, dice Alain Soubirous, che viene elaborato il contratto di lavoro riservato ovviamente ai salariati. Si tratta di un contratto di lavoro naturalmente di tipo dipendente, che distingue i limiti della libertà libertà individuale dalla subordinazione economica, è pensato per chi lavora per l'industria centralizzata e gerarchizzata che ingloba tutti gli aspetti della realizzazione del prodotto. Ovviamente, come diceva Lia prima, chi tra sindacalisti e la cultura del lavorismo italiano, non solo, che è nato con quest'idea, che ha profondità genealogiche di questo tipo e si è messo a legiferare non solo nel 92-93, ma io mi riferisco soprattutto al 97, sulla condizione non solo giovanile, ma sul lavoro indipendente, creando quello che è stato creato in questo paese, più che in altri, bene, insomma, dovrebbero tacere, ragione Lia, ma noi dovremmo capire il livello di sprezzo e di guerra che queste persone, in base a questa genealogia, hanno mosso a milioni di persone, cioè a tutti quelli che hanno iniziato a lavorare dal 96 a oggi, da quando è entrata in vigore la gestione separata dell'INPS, che da qui a 30 anni ci farà fare a questo paese un salto indietro di almeno un secolo nella civiltà industriale. Creerà una nuova condizione di poveri che noi non immaginiamo nemmeno, perché se questa è una crisi di lunga durata che avverrà, in cui avverrà una gigantesca e violentissima ristrutturazione che cercherà di portare le aspettative di vita a quello che è alla vita che noi avremo fra 30 anni. E la gestione separata è semplicemente l'annuncio di quello che si prepara. Il fatto stesso che la sinistra, radicale o meno, questa definizione derisoria che purtroppo ancora noi oggi continuiamo a usare, derisoria per quelli che si sono ovviamente chiamati, amavano chiamarsi sinistra radicale, per fortuna scomparsa, e il fatto di non aver mai messo in parola che il governo Prodi, ricordo nel 2007, così come nel 98, per quale motivo la sinistra radicale l'ha messa in crisi? Nel 98 cadde perché bisognava aumentare per 50.000 lire il reddito annuo dei pensionati. No, ma quello era il vero merito politico, però il governo Prodi cadde sull'aumento delle pensioni a 50.000 lire all'anno. Nel 2007, perché c'era la questione dello scalone dei lavori usuranti, un governo ovviamente improbabile di quel tipo rischiava di cadere perché giustamente la sinistra radicale si era incaponita a difendere 5.000, per carità, tutti i diritti di questo mondo, 5.000 persone che giustamente, tutta la mia solidarietà, fanno un lavoro usurante quando c'è una generazione che è stata calcolata in almeno 4 milioni di persone che sta nelle condizioni di lavoro indipendente. Ovviamente ogni forma di contratto di lavoro, come sanno i giuristi del lavoro, è di natura pubblica e non privata, per cui siccome il lavoro indipendente ha raramente natura pubblica, come vedete, è praticamente impossibile che abbia le garanzie previste per il contratto di lavoro non standard. Allora, che tipo di contratto di lavoro in base a questa genealogia possiamo pensare? Vabbè, ci sono 33 contratti di lavoro, come sapete, in Italia, che regolano il lavoro indipendente. Non c'è traccia né volontà di ridimensionare perlomeno a 5, come suggerisce Luciano Berlino, queste forme, ma non è di questo, perché i giuristi la definiscono, questa panoplia di contratti esistenti in Italia e solo in Italia, come l'esito della personalizzazione del contratto di lavoro. Io proporrei su questa scia una nuova categoria che cercherò di spiegare. La categoria è quella di contratto intimo, perché cosa porta ad accettare milioni di persone, soprattutto giovani, donne, soprattutto in maggioranza, ma non solo, ovviamente, questa condizione sospesa tra una condizione, è paradossale, questo vorrei parlare nella genealogia, sospesa tra una condizione evidentemente di tipo schiavistico, che però è difficile definire in termini schiavistici, perché ha anche, soprattutto nei trentenni e nei quarantenni, numerosi aspetti che richiamano la vita a giada borghese. Cioè, e le due cose, appunto, la coappartenenza, la coalescenza tra libertà e subordinazione, si tengono in una nuova forma che, ripeto, non è stata ancora compresa. Non è stata ancora compresa perché è un problema statistico. Intervistando poco tempo fa la presidente dell'Associazione dei Consulenti del Terziario Avanzato ACTA, Anna Solo, mi ha spiegato in maniera molto, molto analitica e dettagliata il perché c'è una incapacità da parte della scienza statistica in Italia, non solo, in America. Ho avuto modo di intervistare la corrispettiva di Anna Solo in America, che è la fondatrice Sara Horowitz, che è la fondatrice e più grande sindacato del lavoro indipendente al mondo, e anche lei mi dice la stessa cosa. E beh, c'è un problema, lo Stato e la scienza sociale ha una seria difficoltà a riconoscere la mobilità sia di tipo fiscale che previdenziale di questi lavoratori e contrattuale, essendocene 33, poi ovviamente ce ne sono tante altre forme legate a forme di collaborazione a partita IVA, perché sono tante, è infinite. E nel momento in cui il lavoratore passa costantemente da una forma all'altra, cambia di cassa previdenziale in cassa previdenziale, ovviamente è un problema per ricomporre tutti i contributi in una sola pensione, ma quello che mira è di risparmiare sul debito che costantemente fa e deve ripagare allo Stato o alle casse previdenziali professionali. Ecco, la condizione di indipendenza che mi interessa in questa genealogia è proprio questa. Indipendenza significa mobilità. Mobilità in base a un interesse immediato, il risparmio per non pagare alti tassi sul debito che devi comunque pagare. Che è naturale, politica, questa indipendenza, questa mobilità, quest'uso dell'interesse, che cosa significa? Mi ritorno a una argomentazione, non voglio fare troppo il serio, però fa un minimo di rigore genealogico. Allora, origine della parola debito, ben vista, sinistra, francese, eccetera. Questa situazione, debito, da debere, è la forma privativa di deaveo, ritirato a, designa per benveniste, l'obbligo della restituzione. Ora, restando inalterato il doppio movimento di andata e ritorno che prevede ogni contratto di lavoro, appunto anche il contratto intimo personale, il contratto personale gli obbliga a questa, se no altrimenti non è un contratto, che cosa viene esattamente restituito da questo debito? Quando cioè non è possibile restituire quegli interessi il tempo in cui si è evoluto nel bene, di un bene. Nel caso della maggioranza di chi ha un lavoro dipendente o chi non ha un lavoro dipendente, diciamo l'anno scorso l'Istat e l'ISCGL complessivamente, c'è un po' di confusione, però ho calcolato una fascia che va tra i 7 milioni e mezzo e gli 8 milioni di persone, comprendendo anche quelli che presumibilmente lavorano in nero o quelli che hanno rinunciato a accettare occupazione perché disilludono, una categoria abbastanza strana. Nel caso di questa maggioranza ci si riferisce all'ultima risorsa del contraente del contratto, che cos'è? Appunto, la sua vita e le sue potenzialità di vita. Il debito pervade così profondamente questa vita e non può essere e sembra non poter essere nemmeno risarcito in nessun modo. Apre la vita appunto a una dimensione che per tutto il periodo moderno del contrattualismo sembrava essere stata in qualche modo messa da parte, dimenticata, la lotta per la vita. E questo in realtà è interessante, perché si crea un cortocircuito. Questa è un'evidenza per chi vive da almeno 15 anni da indipendente, un'evidenza quasi quotidiana. E questa evidenza quotidiana entra in cortocircuito con la genealogia, perché guarda caso Benveniste in un'altra accezione di debito dice appunto che debito significa spuntarla, vincere in una lotta per la vita. Chi deve pagare un debito, quindi, per riassumere, da un lato vive in una doppia condizione: da un lato si dichiara sempre a disposizione, si offre alla vita dell'altro, si offre alla vista dell'altro, sempre incondizionatamente al servizio di qualcuno o qualcosa, ovviamente, per avere un tornaconto che gli permetta di continuare a vivere dignitosamente. Dall'altro lato si prestare, ovviamente, proseguo il mio ministro, significa stare davanti, essere sempre in testa, essere sempre distinguibili da un altro, quindi è un concetto di competizione, di antagonismo. Ecco, la condizione di subordinazione, chiamiamola così, con qualche approssimazione, cioè l'essere a disposizione, sempre in ogni momento della propria giornata, così come l'atto di libertà che si presuppone stia dietro lo stare davanti, distinguersi in una competizione, ecco, stanno nella stessa condizione di lotta e di passività allo stesso tempo. E ciò che capita proprio nel dispositivo che viene chiamato comunemente precarietà, ci si mette a disposizione di qualcuno anche in mancanza di qualcosa da fare, ci si mette volontariamente al servizio per stare davanti agli altri, per distinguersi nella speranza di essere salvati, in vista di una stabilizzazione. Ciò che si presta, per chiudere questo momento genealogico, è la propria persona, è un atto assoluto che non prevede remunerazione in uno stato di diritto qualsiasi. Come si fa a quantificare un atto così assoluto? Appunto nel documento si parlava di eccedenza, come si fa a quantificare un'eccedenza così incommensurabile? Non è un atto, perché il lavoratore della conoscenza non è uno che vuole bene al mondo, cioè il suo prestarsi e competere, il suo essere libero e subordinato allo stesso tempo, non è un atto di benevolenza né di generosità, come accadeva nella genealogia di Nietzsche, che giustamente denunciava la presunzione dell'uomo borghese cristiano che pensava di avere un credito illimitato e quindi concedeva. Quindi la critica alla natura aristocratica e plebea allo stesso tempo di quel tipo di cultura. Questo atto lo si fa perché ci si vuole bene, per fare un bene a se stesso, a se stessi, nella speranza di avere appunto un futuro migliore, quando invece ciò che si ha in cambio, e sarà sempre così, è solo la possibilità di sopravvivere. Allora, il contratto di lavoro forniva una forma giuridica a ciò che la poetì definiva la servitù volontaria. Il contratto intimo fornisce innanzitutto un obbligo morale, prima ancora che giuridico, e definisce una tirannia sulla propria persona. È il consenso interessato di chi gode dei servizi e del desiderio di primazia tra i cosiddetti precari o indipendenti, e quindi gode del fatto di vedere l'esercizio della tirannia su se stessi da parte di queste persone. È dal punto di vista dell'argomentazione genealogica, questo tipo di piaceri sono fondamentali, perché altrimenti non si spiegherebbe altrimenti la crudeltà di uno che ha un nome che si chiama Tiziano Treu, che nel 97 fa una legge di questo genere e adesso sta pensando di elaborare uno statuto dei lavoratori che verrà bocciato perché passerà quello del ministro Guelfa Saccone, che dice esattamente l'opposto. Ora, ovviamente con qualche problematica, però insomma, adesso vi risparmio la logica degli emendamenti a una proposta che non passerà mai, però è interessante, e a me mi fa piacere che uomini, ovviamente molto intellettuali e grandi, riconosciuti professori ordinari di diritto del lavoro, cambino idea, però sono cambiamenti che non si spiegano altrimenti se non in questo sottile piacere, nello spettacolo di vedere la tirannia esercitarsi, soggetti che esercitano volontariamente la tirannia su se stessi. È uno spettacolo questo, ed è un piacere che i dominanti non si privano mai di questo piacere, e Tiziano Treu è uno di questi. Il contratto intimo quindi è una contrattazione pre-individuale psicologica con il proprio sé. È un contratto stabilito con se stessi e poi successivamente con ogni persona giuridica, il mercato, lo Stato, gli enti, eccetera. È preliminare non solo all'entrata sul mercato del lavoro, ma nella società. Ciò che si insegna da 20 anni, forse anche prima, nella scuola e nell'università, ammesso che si insegni effettivamente qualcosa, ecco, che cosa si insegna a gestire questa contrattazione, ad essere disponibili a un servizio e ad accedere in una competizione. 3 più 2, debito e credito, non è altro che proprio lo schema di questo. Due atteggiamenti, allo stesso tempo servili e borghesi, che il soggetto deve conciliare e alternare nella propria vita fino a sovrapporre, fino a non saperli più distinguere. Infine, continuare a dichiarare al mondo di essere disponibile a qualsiasi futuro, non importa quale. Quindi il contratto intimo, vi propongo questo concetto, un'approssimazione, è un concetto che riassume la tendenza attuale alla personificazione del contratto, come dicevo prima. Il contratto intimo, infine, non elargisce diritti, evidente, se si esercita una tirannia, ma prevede solo doveri da parte di chi lo contrae con se stessi. È l'espressione di una completa giuridificazione della vita psichica, affettiva, sociale e regola la costitutiva perdita, sottrazione, cessione del conatus del soggetto nei confronti del mercato, dello Stato, dell'altro, ovviamente di se stessi. Un'immagine generale per riassumere questa condizione e trovare una soluzione, suggerire, perché anche nel testo giustamente ponete delle domande in questo senso, ovviamente non posso dire che condivido la questione del reddito, che ci staremo qui a rispecchiare, cerco di fare un altro tipo di analisi. Ciò che rende in sostanza la condizione del lavoro in generale, del lavoro a conoscenza in particolare, oggi inclassificabile rispetto al diritto, alla politica, alla sociologia, alla statistica, alla scienza statistica ufficiale, e questo è il problema che Anna Soro sollevava in questa intervista, è il problema dell'Istat e delle scienze sociali in generale, l'incapacità al momento di trovare il paradigma, una metodologia capace di seguire la mobilità di chi mi dice. Quindi ovviamente questa inclassificabilità è data in primo luogo dall'impossibilità di descrivere questa condizione né in termini schiavistici né in termini borghesi, né da ceto medio, il lavoro, la conoscenza, la sociologia, le riflessioni classiche è sempre stato considerato ceto medio, qualche ragione c'era, però è ormai del tutto insufficiente, né come classe operaria, classe salariale. Vabbè, allora io darei una prima definizione, una condizione di apolidi di nuovo tipo, di nuova generazione, apolidi contemporanei, risultato di una scissione dal corpo sociale, perché la vicenda delle leggi sul lavoro indipendente in Italia, diciamo, rivela una scissione da parte della classe dirigente rispetto a chi dovrebbero governare completamente, fino ai limiti della crudeltà. Una extraterritorialità assimilata, questa dal punto di vista dei soggetti apolidi, si vive in esilio nelle società di nascita, è ovviamente una condizione che è il risultato del lutto di emanciparsi da una vita costitutivamente in perdita. Questo è però potrebbe anche produrre un atteggiamento antagonistico di reazione. Credo che Cristina prima sottolineava l'ancora da farsi di questa reazione, però si tratterebbe anche attraverso un'analisi di queste passioni molto dure, molto tristi, capire dove si nasconde questa ultima linea di resistenza da cui ripartire. Gli apolidi contemporanei maturano e vivono oltre la cittadinanza, oltre il lavoro dipendente, un modo di vivere autosanzionatorio. Sono soggetti più completi e subordinati che trovano la propria libertà, perché così vuole il dispositivo legislativo sociale che governa la loro vita, trovano la propria libertà nella partecipazione a un dispositivo che neutralizza la loro vita, non la valorizza. Ora, ho tracciato, usando termini ricorrenti anche nel vostro documento, ma in quel libro che ho citato all'inizio di questo mio intervento, si parla tanto in generale di Newton. Io ho cercato di tracciare, come disse Fortini, una battuta molto bella sempre in quella recensione, da General Psychopathology, del General Italy. Allora, questa apolitia contemporanea, questi apolitici possono essere utili, possono solo essere tristi, un po' depressi, che stanno nel loro angolo in attesa di chissà cosa? A mio parere sì, perché teniamoci al metodo genealogico, vediamo che cosa ci può portare. Ovviamente è chiaro, la politica è una condizione sottrattiva, una mancanza di polis, è anche però una condizione che conquista una polis, prende proprio nella sua radice la polide, ha sempre la polis nel proprio nome, magari non è la polis da cui viene allontanato, eccetera, ma potrebbe anche essere la polis che trova. È creazione di polis, diventa una polis non territoriale, non più soltanto territoriale e nemmeno tanto statale, che lì i confini sono netti, cioè si può vivere appunto in questa extraterritorialità acquisita da parte della polis e della polide in termini creativi. E quindi di più natura è il movimento che si sottrae a una polis e ne crea un'altra. E avviene tutto questo sullo stesso piano di immanenza. Quindi apolis, polis, nuovamente apolis, un movimento che impegna l'intera esistenza, sin dalle fasi più remote del bios, della vita, la sua funzione riproduttiva ovviamente, come la vita della mente. È un movimento polemico, quello che sto descrivendo, polis, apolis, e nuovamente polis e così via, che gli antichi, perché in un modo Diogene, filosofo cinico, appunto, definirono un movimento chimicos. Il chimicos, nella sua veste di eccentrico, Barbagianni, moralista, provocatore d'estato, cioè Diogene cinico, è rappresentato dal suo biografo, forse l'unico, da Diogene Laerzio, come velenoso individualista e costruttore di comunità ribelli. Non ha bisogno di nessuno e ha bisogno di una nuova comunità. Il suo sguardo crasso e plebeo guarda una forma di vita superiore, quella di una democrazia divina. È l'antitesi di Platone, come avrete capito, e anche di Aristotele. Per provenienza il Chinicos è un personaggio della polis, perché altrimenti non si potrebbe definire, nella città di questo carattere è il prodotto dell'intelligenza declassata, proletarizzata, plebea della stessa polis. È con la polis che il Chinicos, da distinguere dal cinico, come parlo tra breve, che con le sue insostenibili provocazioni, adesso non vi sto a raccontare gli episodi che raccontano Diogene orinare in strada o piuttosto che altro, si colloca fuori dalla polis e chiede una nuova polis. Il moderno cinico di massa, come è sostanzialmente il precario, la rappresentazione del precario che ci vuole dare, se non trovo un lavoro, io in base alla mia intelligenza fuggo all'estero. E che Luigi Celli, che presenterà un libro oggi da lui, se si tratterebbe di andargli in massa a dire questa cosa a suo figlio, e si è scoperto grazie all'inchiesta meravigliosa giornalistica che il figlio è impiegato in due consigli di amministrazione. Questo è il cinismo di massa. Ovviamente il cinismo di massa è la passione delle classi dirigenti, dei dominanti. Il modello cinico di massa è un apolide integrato, perde ogni motivazione individuale e si concede l'ebbrezza di una posizione di osservatore della vita. È un dropout che però si considera al centro della società. Sul piano psicologico, il cinico di massa è un caso limite di melanconia, in grado di controllare la propria depressione perché è impegnato nel ripagare il debito, cosa che pone un attivismo disperato alla sua depressione. L'humus cinico metropolitano però è più ampio del cinico di massa. L'humus cinico metropolitano deriva da una cultura cittadina, dalla sfera di corte, talvolta si è trasformato nella società borghese, ovviamente, in un cinismo al limite della crudeltà. Il precario vive da aristocratico, dicevo prima, una condizione da plebeo. Questo è il significato della posizione cinica, non chimica, come dicevo prima. Infatti Peter Sloterdijk, che forse è uno dei migliori suoi libri, definisce il cinismo come la falsa coscienza illuminata, nel senso che è una passione da classe dominante è popolata e animata dai dominati. La classica trasposizione che invece ci ha insegnato a vedere in vari coinvolgimenti che sono propri ai discorsi sul credito e sul debito. Roberto, scusami, ho finito, forse c'era bisogno di una pausa sigaretta generale. No, ho finito. Vabbè, scusate la lunghezza, ma no, siamo in diciamo, il documento che ero chiamato a commentare. Io mi stavo divertendo. Ok, quella del cinismo non è una condizione irreversibile. No, non fatemi fare il cinico. No, perché c'è solo una pagina. Vabbè, dai, poi. Diciamo. Faccio riferimento a nel Courage della Verità, l'ultimo corso al Collegio delle Fonti, fa esattamente questa storia del movimento del cinico o chimico. E è interessante perché procedendo per cortocircuiti, lui collega il movimento chimico alla storia della militanza rivoluzionaria che inizia nell'Ottocento e sfocia nel Novecento. Che cosa accomuna queste due cose che solo un cortocircuito genealogico può mettere insieme? Beh, la potenzialità, il pensiero che le potenzialità di vita possono essere messe al servizio della vita e del movimento di fuoriuscita della polis consolidata al fine di una creazione di un'altra polis. Foucault chiude così. Ora sappiamo che nella genealogia del chimismus c'è anche un impegno etico e politico a cambiare la vita in nome di una vita vera e a farlo già direttamente nel presente, dove è possibile condurre una vita alta. Il chimismus continua a coniugare la vita filosofica, ecco il cortocircuito cui facevo riferimento prima, con l'idea moderna di un attivismo etico e politico, lotta spirituale e lotta per la trasformazione del mondo. La vita cinica è certamente indifferente, questo cinismo, ma a cosa è indifferente? Al fondo, alla struttura? È indifferente alla legge, compresa quella che governa la legge, la legge propria, quella che ci si dà col contratto intimo. In questo senso è ambivalente, perché come lo puoi usare all'esterno, lo puoi usare anche all'interno, verso il patto che tu hai siglato con te stesso, il disincanto del cinismo. Disincanto cinico può essere utilizzato in questi termini, cioè in termini etici, questa è la tesi. Che vita è quella del cinico metropolitano post-comunista o non post-comunista? È la vita da cane? Bios unicos, lo chiamava Diogene, che abbaia per proteggere la vita degli altri, una vita che ha lo scopo di trasformare il mondo insieme alla propria vita. Chi non fuma? Aspetta, chi non fuma posso continuare a parlare. Mi chiami la Castellina? Federica.